Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius. In viaggio nel mondo senza fine della scienza con Federico Pedrocchi. In fondo non è un buon modo iniziare la puntata risolvendo un problema, è quello che faccio fra poco con Chiara e Alberto. Adesso i titoli e poi iniziamo. Banchi di pesci, stormi di uccelli o sciami di locuste. Ma come fanno a muoversi in gruppo con perfetto sincronismo? Ce lo chiede Nunzio, un nostro ascoltatore. In mezzo all'Amazzonia, fra maschi e femmine dei Pirahà, la tribù nella quale il linguaggio si sviluppa a seconda del sesso. Inchiesta sui nativi digitali e viene fuori che sono meno digitali di quanto si pensasse. Antonio Damasio, neuroscienziato portoghese, ha scritto un libro sulla coscienza, ma dice che non sa bene che cos'è. Ce lo spiega un filosofo che l'ha intervistato. Riscaldare gli ambienti studiando il loro microclima, una collaborazione fra un'azienda del Bergamasco e un istituto del CNR, ha messo a punto una tecnologia davvero sorprendente. Eccoci qua. Ciao Chiara, ciao, ciao Alberto. Ciao. Dai, più che problema è una domanda interessante questa volta. Interessante, molto... credo che se la siano fatta in molti. Sì, io me lo sono fatto. Sì. Ecco, allora ci arriva da un ascoltatore che ci ha contattato via mail, quindi come al solito io lo ricordo. Scriveteci a mebius@radio24.it, ma non solo. Scriveteci anche via Facebook, Moebius Scienza. Oppure Twitter, che è Moebius_, cioè il trattino basso, online. E ora diamo la parola al nostro ascoltatore Nunzio che ci chiede. Salve, chiedevo come mai ci sono gli animali, che sono stormi di uccelli oppure branchi di pesci, che si muovono tutti allo stesso istante nella stessa direzione, mentre gruppi di persone in palestra, per esempio, che non riescono a seguire le indicazioni dell'istruttore. Chi deve andare a destra, va a sinistra, eccetera, eccetera, con il massimo della scoordinazione. Come è possibile ciò? Quanto ha ragione il nostro Nunzio, certi scordinatoni. Come è possibile, infatti? È vero questo parallelo, cioè il fatto che loro riescono a coordinarsi così bene. A fare delle figure anche in cielo meravigliose, gli stormi. Gli animali ce la fanno, ma è intelligenza collettiva, invece per noi forse è stupidità collettiva. Collettiva, distribuita bene. Allora chi sentiamo? Sentiamo Irene Giardina, che è ricercatrice all'Istituto di Sistemi Complessi del CNR di Roma. Buonasera Giardina. Buonasera. Buonasera, eccoci qua. Allora, come fanno questi uccelli, per esempio? So che voi avete studiato gli stormi. Sì, gli esempi che ha fatto l'ascoltatore, quindi gli stormi di uccelli, anche i branchi di pesci, sono esempi di quelli che vengono chiamati gruppi animali con comportamento collettivo auto-organizzato. Sono stati molto studiati ultimamente, non solo in biologia, ma anche da altre discipline, proprio per le caratteristiche che notava l'ascoltatore, vale a dire questa capacità di muoversi collettivamente con grande coordinazione e grande coesione. Come fanno? Quello che si sa e che si ritiene è che gli individui in questi gruppi animali seguano delle regole di interazione con gli altri individui, cioè per esempio nel caso degli uccelli ogni uccello cerca di imitare i propri vicini e quindi di volare nella stessa direzione in cui volano i propri vicini. Non c'è, contrariamente a quanti molti pensano, un leader che guida tutti quanti, ma il comportamento collettivo è proprio il risultato di queste interazioni tra i singoli individui. Allora, non c'è un leader, però c'è una rotazione di leader, perché comunque noi il vertice lo vediamo anche nei banchi di pesci. Quello, diciamo, è un vertice posizionale, però non è affatto detto che sia un individuo che guida tutti gli altri. Ah. Quando lei osserva gli stormi di uccelli, a Roma è un fenomeno quotidiano durante l'inverno, quello che può anche notare è che gli uccelli si scambiano continuamente di posto, quindi non c'è un leader, un individuo che è il leader ed è sempre lui. Possono esserci ovviamente nel corso del tempo individui che prendono una decisione e poi fanno sì che tutto il resto del gruppo li segua. Per esempio, se ci sono degli uccelli che si accorgono che sta arrivando un predatore, allora cominciano a muoversi in maniera diversa rispetto alla direzione che seguivano precedentemente, in modo da volare via dal predatore. E questa decisione si trasmette a tutto il gruppo e riesce a trasmettersi in maniera efficace e veloce grazie alle interazioni che ci sono tra tutti gli individui. Quindi l'importante è la struttura del gruppo e il fatto che ogni individuo tiene d'occhio quelli che ha attorno, insomma. Questo vale appunto per gli animali. Per l'altro animale, l'uomo, invece come funziona? Nel senso che, vabbè, forse in palestra perché siamo troppo pochi, siamo tutti scoordinati. Innanzitutto l'esempio dell'ascoltatore è un esempio che non è esattamente analogo a quello degli uccelli, perché l'ascoltatore diceva l'istruttore dà delle indicazioni e noi facciamo tante cose diverse, quindi c'è un leader che è l'istruttore in questo caso e ordina a tutti gli altri cosa fare. Invece nel caso degli uccelli il comportamento, come dicevo prima, è auto-organizzato, cioè emergente, è una conseguenza delle interazioni tra gli individui. Quindi forse più calzante potrebbe essere ad esempio l'esempio di una grande folla, di un grande corteo con tante persone? Sì, decisamente. Per esempio anche il traffico pedonale è un esempio più simile. In questo caso ci sono tanti pedoni nelle strade. Nel caso del traffico pedonale a volte osserviamo che a poco un ordine emerge. Per esempio i pedoni si organizzano in delle file. Nelle strade molto affollate si vede che ci sono file di pedoni che vanno in una direzione e file di altri pedoni che vanno nella direzione opposta. Ovviamente ci sono anche circostanze in cui l'auto-organizzazione non si riesce ad ottenere in maniera efficace o del tutto, per esempio nel caso di fenomeni di panico, quando ci sono delle grandi folle nei concerti o ci sono tanti esempi, insomma alla Mecca durante processioni. Perché? Ma secondo me il caso dei gruppi animali è un caso in cui vi è un processo evolutivo che ha condotto a selezionare in qualche modo delle regole che vanno poi a beneficio degli individui e del gruppo, nel senso che i gruppi animali spesso svolgono delle funzioni biologiche molto importanti. Nel caso degli uccelli, volare in gruppo ha una funzione antipredatoria. Se si vola in gruppo, la probabilità di essere catturati da un predatore è minore. Il tipo di intelligenza, di comportamento individuale dell'uomo normalmente segue delle altre strategie. Grazie Giardina, buonasera. Buon lavoro. Buon lavoro. Questa sera, ma lo facciamo abbastanza spesso, devo dire, qui a Möbius, andiamo in giro per il mondo e andiamo piuttosto lontano. Andiamo in Amazzonia e lo faccio accompagnato da Paola Rebusco. E qui siamo sempre su grandi distanze, che sta a Boston, nella nostra corrispondenza agli Stati Uniti. Ciao Paola. Ciao, buonasera a tutti. E il nostro ospite, Paola, è Dan Everett, che è rettore all'Università di Bentley. Mr. Everett, welcome to Möbius. Thank you very much for having me. Paola, incomincia tu allora a introdurre il tema e a introdurre anche la prima domanda al nostro Everett. Andiamo in Amazzonia, andiamo a incontrare una popolazione, vediamo se la pronuncio giusta, Piraha, è giusto? Piraha. Piraha. Yes. Lei è noto per le ricerche che ha condotto sulla popolazione dei Piraha, che è una popolazione amazzonica. Per iniziare, ci può dire in quale parte dell'Amazzonia vivono, quanti sono e come si svolge la loro vita quotidiana? Yes, there are about 750 Piraha today. Sì, al giorno d'oggi ci sono circa 750 Piraha e vivono nell'Amazzonia del Brasile occidentale. La loro vita quotidiana è quasi esclusivamente la vita di cacciatori-raccoglitori. Il loro cibo proviene soprattutto dal fiume o da prodotti naturali della giungla. Piantano solo pochi tipi di colture, soprattutto manioca e tapioca, e vivono praticamente come vivevano centinaia di anni fa. E lei ha vissuto con i Piraha per parecchio tempo. Quanto esattamente? I went to the Piraha in 1977 and sono andato a vivere con i Piraha nel 1977 e ho lavorato con essi sin da allora. Ho passato quasi 8 anni interi a vivere con loro nell'Amazzonia, con la mia famiglia, la mia ex moglie e 3 figli. Ho imparato a parlare la loro lingua e nel corso della mia vita li ho conosciuti molto bene. Lei è un linguista, Everett, e allora ha anche imparato il linguaggio di questa popolazione, dei Piraha? Sì, vi dirò qualche parola in Piraha, così potete sentire com'è. E significa, sì, ho imparato a parlare con la testa dritta. Con la testa dritta è l'espressione con cui si riferiscono al loro linguaggio. L'ho studiato per molti anni. Ho letto che loro erano abbastanza sorpresi nel sentirla parlare le prime volte il loro linguaggio. Yes, when I go to other villages Sì, quando vado in altri villaggi dove ci sono giovani che non mi hanno mai visto e inizio a parlare piraha, gli si apre la bocca e mi fissano stupiti. È quasi come fossi un pappagallo parlante. Per loro è difficile credere che qualcuno che non sia piraha possa parlare la loro lingua. Lei ha anche trovato che la loro percezione del tempo è molto diversa dalla nostra, e il tempo ha a che fare con il linguaggio perché c'è il passato, il futuro dei verbi, per esempio. Riesce a spiegarci come funziona questo aspetto singolare? Yes, they have no markers. Sì, i loro verbi non hanno una forma per indicare tempi passati o futuri. Chiaramente sanno che esiste un passato e un futuro, ma a livello culturale c'è una forte restrizione, che io ho chiamato il principio dell'immediatezza dell'esperienza, per cui non parlano del passato lontano né del futuro. Preferiscono parlare di cose di cui abbiano prove concrete, cose che qualcuno ha visto o ha sentito, oppure dedotto. Ai piraha non piace speculare sul passato lontano. Dai suoi studi lei ci racconta che nel linguaggio di questa popolazione non esistono nemmeno i numeri. Come fanno quindi a contare? Sì, è stata una delle scoperte iniziali più sorprendenti che ho fatto nello studiare i piraha. Non contano e non hanno parole per i numeri, nemmeno per il numero uno. Questa scoperta è stata confermata in tre studi indipendenti, dalla Columbia University, dall'MIT e dall'Università di Miami. Ci dimostra che gli esseri umani non hanno bisogno di numeri per cavarsela nella propria vita quotidiana. Una nozione che i professori di matematica probabilmente non sono contenti di sentire. Un'altra cosa molto curiosa che lei ha scoperto e che è un po' al centro di questa intervista vorremmo capire è che gli uomini e le donne parlano in modo diverso. Per esempio, le donne usano una consonante in meno degli uomini. Sì, è affascinante. Per esempio, per riferirsi a una pietanza di manioca, che è uno dei cibi che a loro piace mangiare, un uomo direbbe masioca con la S, mentre una donna direbbe maoha con una O. Quindi laddove gli uomini hanno S, le donne hanno O, e laddove gli uomini hanno O, anche le donne hanno O. E la loro pronuncia è diversa, differenzia uomini e donne. Ma se guardiamo alla maggioranza delle lingue europee, se guardiamo all'inglese, probabilmente anche in italiano, ci sono caratteristiche diverse nei discorsi di uomini e donne. Nella lingua parlata inglese rispetto agli uomini, le donne tendono a usare più parole che si riferiscono a colori e tendono a utilizzare quelle che sono considerate le forme più corrette di una parola. Quindi il principio di base è che la società ha un effetto su chi parla e sulle relazioni tra i membri della società, in modo tale che il linguaggio riflette queste relazioni. Una delle distinzioni fondamentali in una società è quella tra uomini e donne. Per cui non è sorprendente trovare una cultura che abbia queste differenze, sebbene i piraha abbiano differenze più marcate che non altre lingue. Quindi non è sorprendente per lei il fatto che donne e uomini che nascono esattamente nello stesso ambiente, crescono nello stesso ambiente, però assorbano un linguaggio diverso. Sì, ci sono altre lingue, anche in Brasile, in cui uomini e donne parlano diversamente. L'aspetto affascinante è che i ragazzini maschi imparano a parlare soprattutto dalle proprie madri. Quindi i ragazzini giovani parlano come donne, ma quando crescono iniziano a parlare sempre più come i propri padri. Un altro aspetto molto interessante è che conosco un uomo gay nel villaggio. Bene, parla il dialetto delle donne. È questione di identificarsi con un gruppo in particolare. I bambini crescono imparando la parlata femminile e poi si spostano sulla parlata maschile. Grazie Daniel e grazie anche per la partecipazione alla nostra trasmissione. Come possiamo salutarci in piraha? They don't say goodbye, but I would say chisowa kahape, I'm already leaving. Non vi direi arrivederci. Direi sto già partendo. Adesso Chiara ti faccio sentire una canzoncina di una signora piraha. Sì, devo dire che era molto affascinante questo servizio. La sentiamo? Mm-hmm. so che tu organizzi anche eventi musicali, forse sì, non attirerebbe molta sì, gente. Sì, non è proprio armoniosissimo, però insomma. Senti un po'. Questa è una canzone tradizionale, Piraha. Oddio, c'è anche un fischio. Sì, sì, è una loro canzone che è diffusa e quindi la cantano anche i maschi. Vuoi sentire come cantano la stessa cosa? Sì, sono cosa, molto curiosa. Perché noi qui adesso dobbiamo far capire, far toccare proprio con le orecchie sì, la differenza. Che già prima nel servizio diciamo che avevamo abbastanza toccata, ma così. Quindi, sentiamo come la cantano gli uomini. Beh, lo stornello è palesemente lo stesso. Però è chiaro che non c'è, non sono le stesse parole, ma con una voce da uomo, no? Qui no, è un'altra. Sembra un'altra strofa della stessa canzone. Le donne fanno e gli uomini sono più. Sono più ritmati, è vero, sono anche è vero, più ritmati. A notare il nostro regista Paolo. Ma insomma, è la stessa canzone, però. La stessa canzone, le stesse parole, però chiaramente le donne non hanno le consonanti, per esempio. Non so se è molto. Perché sai, parlare di consonanti vocali è un po' diverso. In un linguaggio, certo, diverso. E gli uomini invece ce l'hanno, e quindi qui tocchi con mano la differenza. Però la cosa bella che lui dice è che, guardate, che lì da loro è molto marcato. Ecco, però anche da noi, lui diceva, infatti, probabilmente anche voi nell'italiano. Sì. E infatti a me viene da pensare che comunque le femmine da noi insomma usano anche molte più parole, esatto, a livello di quantità, come dire. Noi ci ridiamo sopra su questa roba, ma invece è una differenza come il fatto sì, ancestrale, che ancestrale, forse innata, no? Come avere delle forme del corpo diverse. No, stiamo sbagliando, nel senso che sono i comportamenti culturali che riescono a influire anche sul linguaggio. Lui ricorda che le donne inglesi pronunciano più spesso, fanno più spesso riferimento a colori e non degli uomini. Sì, probabilmente tu dici le caratteristiche ambientali e culturali, però dovrebbero essere le stesse tra uomini e donne che vivono in una stessa situazione. Però evidentemente no, e questa è la parte interessante. Perché sono diversi corpi e quindi il rapporto con le cose da loro diventa esplosivo, perché certo se non hai la percezione del tempo. Hai proprio un alfabeto diverso e anche. La lingua non può avere il futuro e il passato. Infatti loro cosa dicono? Sto andando, non arrivederci. No? E poi la cosa che ci impressionava in redazione è che non hanno i numeri. Che non questo hanno i numeri, è pazzesco. Sì. Però non sono gli unici, non è l'unica tribù. No, ce ne sono anche, ad esempio, nel Pacifico di tribù di questo genere. Però insomma loro praticamente non lavorano. Cioè, che fortuna. Che fortuna. Cellulari pronti perché arriva il quiz. Beh, ormai dovreste sapere tutto sul bosone di Higgs, che se è di un certo Higgs vuol dire che ci sarà pure un nome, no? Domanda facile, allora, come si chiama il signor Higgs? Peter, scriverete Peter. Adam, scriverete Adam. Timothy, e scriverete Timothy, con il solito numero di SMS che è 349-238-6666. Il libro che si vince è 9 vite come i gatti di Margherita Hack e Federico Taddia, edito da Rizzoli. Guardate, ascoltatori e ascoltatrici, che di questi tempi fa veramente piacere poter andare in onda e raccontare delle buone notizie, ma di quelle proprio, come possiamo definirle, grasse, tonde, perché c'è veramente qualcosa di interessante ed importante che si può comunicare. E quello che vi sto per raccontare ha esattamente queste caratteristiche. Lo faccio, ovviamente, come sempre, in compagnia di qualcuno, con l'ingegner Pietro Rota. Buonasera, Rota. Buonasera a voi. Allora, lei è al centro, poi sentiremo anche un altro personaggio che sta lavorando strettamente in contatto con voi e continua a farlo. Siete al centro di un'iniziativa che sul fronte risparmio energetico, intervento sul patrimonio edilizio italiano è assolutamente, me lo lasci dire, entusiasmante, insomma, perché si va a risolvere un problema veramente grosso. Però io le chiedo prima brevemente chi siete, così vediamo quali sono i due soggetti. Uno è il CNR, l'Istituto di Tecnologie della Costruzione di Padova, e sentiremo dopo. E voi? Allora, noi siamo un gruppo energetico che si occupa di energia, siamo una ESCO, quindi siamo una società che poi ha un modello anche totalmente integrato, quindi che si occupa proprio di fare e di investire soprattutto in interventi di efficienza energetica. E poi c'è una società operativa, quindi c'è la ESCO che si chiama USave e c'è una società operativa che si chiama Winvent, che poi è proprio la costituita per poi sviluppare tutto il progetto di cui adesso andremo un attimo a parlare. Sì. Ed è la società che poi adesso lo sta portando alla commercializzazione, quindi non è un progetto che ovviamente col contributo del CNR ha avuto un risvolto molto importante dal punto di vista sperimentale di ricerca, ma è proprio una cosa che andiamo ad applicare, perché poi sì, concretissimo, la si fa, cioè il risparmio lo si fa se poi le tecnologie le si usano, no? Allora proviamo a smontare subito la cosa e smontiamo una di quelle case tendenzialmente piuttosto brutte, ahimè, degli anni 60-70 del nostro patrimonio edilizio. Se apriamo i pavimenti di una qualunque di queste case, spesso e volentieri cosa troviamo? Un'infinita salsiccia che però è un tubo, no? Che li ricopre completamente, no? E sono quelli per il riscaldamento. La descrizione le funziona, quello che ho dato io? Sì, tipicamente in quell'era, diciamo, a volte non c'era nemmeno il riscaldamento pavimento, c'erano i radiatori, quindi si trovava una situazione, uno status quo sicuramente obsoleto. Qualche numero c'è ed è anche un po' il rationale di contesto che ha spinto un'azienda come la nostra ad investire in questa tecnologia, che poi appunto il ratio, i numeri che diceva lei, sono reali, quindi degli edifici ad uso residenziale noi risulta che circa il 70%. 100 è di quel. Però forse io prima un po' sbagliato, c'erano le case con i pannelli di riscaldamento e poi quelle con i caloriferi. Okay. Esatto, quindi quali sono le due macro tecnologie? Questo tipo di riscaldamento ha un sacco di difetti, è molto energivoro. In che modo voi introducete invece un'alternativa che può essere piazzata in queste case? Come fate, ingegneri? Quindi noi abbiamo sviluppato questo sistema che sostanzialmente è un modulo radiante di un metro per un metro e è sostanzialmente un condotto prestampato, quindi non è più un tubo steso all'interno del pavimento, ma è proprio un modulo, dovete pensarlo proprio come un modulo con una sua griglia, con una sua rigidità che viene proprio appoggiato sul pavimento e poi giuntato l'uno all'altro. Okay. L'obiettivo era quello appunto di avere un sistema che potesse garantire una diffusione del comfort più efficace rispetto ai sistemi tradizionali, di poter essere inserito in sistemi edili a basso spessore, proprio perché lo spessore ovviamente conta per poter fare effettivamente... Ecco Rotta, questo è importante, cioè lì dentro noi dobbiamo cambiare delle cose che stanno in un pavimento. Se abbiamo come intervento sostitutivo un'apparecchiatura che confligge con gli spessori di quel pavimento, non cambiamo niente. Voi avete studiato qualcosa che ha uno spessore ridotto. Esatto, noi riusciamo a stare con tutto il sistema compreso, quindi la tubazione, quindi il modulo radiante termoglio che abbiamo sviluppato e il massetto in 30-35 mm contro le soluzioni, anche quelle diciamo più spinte attuali che si spostano verso i 55-60 mm. Quindi questa è la grande differenza, tolgo quello che c'era e metto questo. Esatto, noi in 3 cm e mezzo sostituiamo quello che gli altri non riescono a fare se non in 5 cm e mezzo. E sembra poco, ma in quei 2 cm ci si gioca tanto dal punto di vista e della fattibilità e poi dell'efficienza del sistema, perché i 2 cm contano moltissimo nella capacità del sistema di essere basso inerziale e quindi essere molto... Non mi usi gergali, basso inerziale vuol dire che per farlo partire... E ho bisogno di meno energia per accenderlo? Ad esempio ho bisogno di meno energia, diciamo che ottimizzo le ore di utilizzo del sistema, ottimizzo la rispondenza del sistema rispetto a quello che è il mio desiderata dal punto di vista del comfort, cioè se io ho bisogno di una temperatura, io imposto un termostato nel mio edificio e ho bisogno di una certa temperatura, io riesco a raggiungere quella temperatura in maniera molto più efficace rispetto agli altri sistemi. Questo noi proprio l'abbiamo misurato sperimentalmente. Quindi si vede necessariamente che rispetto ai sistemi tradizionali a tubo noi riusciamo a raggiungere, quindi a centrare quella finestra di comfort desiderato per circa il 90% del tempo rispetto ai sistemi anche quelli più spinti di tipo radiante che arrivano fino al 70-75%. Questo vuol dire che per esempio luoghi di lavoro che nel weekend stanno chiusi e non c'è bisogno poi il lunedì di uno sfracello di energia per farli ripartire. Ad esempio. Questo è... Non solo nei tempi di inattività, ma anche proprio la possibilità di portare via o da portare calore negli edifici laddove ci siano i famosi, quelli che vengono definiti i carichi gratuiti. Quindi, certo, ecco, è questa la seconda cosa che volevo chiedere. Con il vostro sistema anche si può andare a riscaldare dove serve e non avere un sacco di calore sprecato in punti che è inutile riscaldare. Certo, assolutamente sì, questo è proprio uno delle tematiche, quindi noi lavoriamo molto sulla progettazione, quindi grazie proprio alla tematica che abbiamo introdotto riusciamo a lavorare molto bene nell'ottimizzare proprio il layout proprio per centrare il più possibile il comfort, quindi questo è stato lo sforzo fatto anche insieme al CNR proprio di andare a studiare bene questo sistema che potesse garantire una maggiore efficacia proprio del comfort reso. E infatti è quello che sentiremo adesso intervistando Ermanno Grinzato. Grazie Rotta. Grazie a voi, buonasera. Ermanno Grinzato, buonasera, benvenuto da noi. Buonasera. Lei è ricercatore dell'Istituto Tecnologie della Costruzione di Padova e avete lavorato appunto su questo progetto. Però il discorso con lei può essere più ampio, anche perché con lei parleremo di un'applicazione particolare di questi criteri di riscaldamento locale, perché voi avete lavorato su un grande edificio, una chiesa addirittura, all'Aquila, e infatti questo tipo di tecnologia potrebbe essere anche molto interessante per gli edifici storici grandi, che sono tantissimi in Italia. Senta, lei mi ha raccontato, perché ci siamo sentiti prima della trasmissione, una cosa molto affascinante, e cioè un robottino che voi avete costruito e che cosa fa? Va in giro per tutto il volume della... Mi dica cosa fa, cosa combina? D'accordo. L'obiettivo nostro principale è quello di studiare come la climatizzazione attraverso sistemi radianti possa essere applicata con grande beneficio non solo all'edilizia residenziale ma soprattutto agli edifici di grande dimensione, quindi edifici storici, diciamo edifici industriali, aeroporti e quant'altro, uno le possa immaginare. Grandi edifici per esattamente, in generale. Perché la problematica principale è questa. Se noi dobbiamo climatizzare come si fa normalmente con un sistema ad aria forzata o con altre tecnologie l'intero volume, avremo una valutazione, un calcolo e anche uno spreco di energia assurdo. Quindi il vantaggio enorme dei sistemi di climatizzazione radiante è quello di poter costruire una piccola isola di benessere in cui si realizzano le condizioni ottimali indipendentemente da quello che magari avviene al di fuori, quindi con grande beneficio dal punto di vista del risparmio energetico. Quello che potremmo definire una specie di microclima dell'edificio, e il luogo dove deve stare la gente deve essere confortevole. Certamente. Allora, la domanda principale è questa: dove si trova e quanto grande è questa isola di benessere? E poi quanto effettivamente corrisponde a quelle nostre aspettative, a quello che è stato progettato con l'impianto. Ecco, qui si inserisce questa strumentazione, questa metodologia, si basa essenzialmente su un principio termodinamico abbastanza semplice, cioè che all'interno di un edificio, in un ambiente confinato, si hanno delle condizioni che sono legate principalmente alla temperatura. Allora, il robot di per sé non va in giro manualmente, automaticamente, potremmo implementare anche questa funzione, ci abbiamo pensato. In ogni caso abbiamo pensato anche a una soluzione, diciamo, totalmente automatizzata. Ma cosa fa questo robot? Questo robot scandisce grandi superfici dell'ordine di, diciamo, decine di metri quadrati, in maniera da ricostruire non una singola mappa di temperature diciamo localizzata basandosi essenzialmente sulla termografia infrarossa coadiuvata da pochi sensori locali che sono integrati in questo sistema in modo intimo, diciamo automatico, ma proietta e le mette a registro, le equalizza anche dal punto di vista radiometrico, di modo che queste mappe alla fine corrispondono a una scansione, per esempio nel caso della nostra chiesa, di un terzo di una parete laterale o quasi completamente della facciata. Quindi con poche battute, diciamo, di questo sistema che scandisce una superficie di questo genere in un ordine di tempo del minuto, noi abbiamo acquisito le condizioni che possiamo considerare istantanee dal punto di vista termodinamico e quindi possono essere utilizzate molto facilmente all'interno di altri modelli di calcolo. Cioè, voi riuscite a capire in una parete dove ci sono per esempio degli spifferi di una finestra, dove una certa parte è più fredda di un'altra, fate una lettura di come sono distribuite le temperature su quella parete. Quando lei ha questa meteorologia praticamente della parete, a quel punto potete costruire un sistema di riscaldamento che ne tenga conto. Questo sistema ha una seconda parte, quella che è in grado di rilevare, questa è una novità veramente abbastanza grossa, di rilevare anche le condizioni dell'aria umida, cioè dell'aria dell'ambiente, temperatura, velocità e umidità dell'aria. Quindi con un unico sistema e un'unica scansione noi possiamo considerare di avere in mano sia le temperature di parete sia le condizioni dell'aria, perché è l'interscambio tra aria e parete che produce i principali fenomeni di interesse. Ho capito. Con una strumentazione per riscaldamento come quella che ci ha descritto prima Pietro Rota, che è in grado, no, di distribuire dei punti di erogazione in modo molto preciso, allora si riesce ad ottenere questo, certo, questo risparmio complessivo. Certo. Questo sistema ci permette poi di valutare a posteriori il reale funzionamento e quindi ottimizzarlo nel caso con piccoli accorgimenti, verificare se è stato svolto il lavoro nel modo adeguato, perché spesso capita che ci sono anche dei problemi di messa in opera, ed eventualmente intervenire localmente dove ci sono dei problemi, proprio in virtù del fatto che noi visualizziamo su una mappa tridimensionale dell'edificio i punti critici. Ermano Grinzato, io l'assoluto mi sembra molto chiaro, effettivamente abbiamo anche con questo tipo di sistemi la possibilità di effettuare grandi risparmi energetici su patrimonio dei grandi edifici. Buon lavoro e buona ricerca. Grazie mille e buona serata. Come le nuove generazioni usano la rete, le nuove generazioni italiane. Ne parlo questa sera con Gianni Domenici. Buonasera Domenici. Buonasera a voi. Sociologo dell'innovazione, ma anche direttore di Forum PA, che è insomma quella grande macchina che gestisce un sacco di informazioni che riguardano le pubbliche amministrazioni. È stata fatta un'indagine, no, su questo tema, promossa da Forum PA e anche poi l'ha realizzata Lorien, che è una società specializzata nei sondaggi. Che dati centrali, non dico tutti, ma insomma stanno venendo fuori e sono venuti fuori da questa inchiesta? Ma sì, noi siamo andati con l'indagine campionaria ad esplorare quello che viene chiamato normalmente, quelli che vengono chiamati i nativi digitali, quelli che sono nati già in epoca internet. Sì. Semplificando, il campione era composto da ragazzi ovviamente di diverse età, ma nella fascia che va dai 18 ai 35 anni. Okay. Quindi siamo andati a vedere se in effetti essere nativo digitale aggiunge un qualcosa rispetto a quelli che sono non solo i consumi tecnologici, ma anche l'attitudine verso quelli che sono i problemi sociali, economici e politici. Okay. Allora, il primo dato interessante è che se grazie ai dati Lorien, se attualmente in Italia coloro che usano internet sono il 61%, se andiamo a vedere all'interno di questo campione ristretto, quelli che utilizzano internet sono l'82%, quindi questo un dato di contesto abbastanza scontato, ma insomma anche chiaro. Però, e netto, è evidente che ci sono di più i ragazzi che usano internet. Certo. La cosa interessante però, se noi andiamo a vedere come si comportano questi nativi digitali, allora abbiamo individuato 5 classi, la prima sono gli esclusi, comunque anche tra i giovani c'è un 18% di persone che non usano internet. Non è pochissimo. Anche tra i ragazzi ci sono gli esclusi. Non è pochissimo, insomma, è una cifra significativa, insomma, 18%. E soprattutto è significativo il perché, perché il motivo principale non è per motivi economici o tecnologici, lo rispondono perché non mi interessa, quindi è proprio un'esclusione culturale più che diciamo fisica o tecnologica, a me internet non interessa, è il 18%. Il 45% sono quelli che noi abbiamo chiamato gli osservatori, sono persone che su internet leggono, si informano, però non contribuiscono a produrre materiali, sono consumatori di internet, non osservatori come abbiamo detto noi. Questo Domenici significa anche che non contribuiscono, questo non contribuire vuol dire anche che non partecipano attivamente a cose come Facebook, significa anche questo? Esattamente, sì. Se lo leggono magari le pagine degli amici, ma fanno poco o niente. Leggono forum, discussioni specializzate, il giornale, però con una forma prevalentemente passiva. Ok. A questi invece sono i veri e propri consumatori, il 15,2% che invece usano sempre in maniera passiva, però anche per l'acquisto. Per esempio, in più degli osservatori usano internet per comprare servizi e prodotti, organizzare viaggi, comprare prodotti elettronici, prodotti di consumo personale, quindi usano internet come consumatori. Arriviamo al dunque, le ultime due classi. Il 19,3% invece sono i contributori, cioè quelli che comunque usano internet anche contribuendo, lo fanno appunto relazionandosi nell'ambito dei social network, quindi interagiscono su internet, ma non solo, creano contenuti, magari hanno un blog, magari pubblicano le foto su piattaforme quali Flickr o piattaforme comunque specializzate, pubblicano video su YouTube, quindi sono contributori, ripeto, questo è il 19,3%. Sì, manca poco. Infine ci sono i creativi, la classe più piccola, sono il 2,5%, ma sono quelli che sono protagonisti della rete e lo fanno con finalità creative e imprenditoriali, cioè non solo pubblicano relazioni e interagiscono, ma loro propongono dei blog di approfondimento, svolgono relazioni professionali e commerciali, partecipano a community in maniera attiva oppure creano delle community, cioè sono quelli che creano valore aggiunto all'interno della rete. In un certo senso sono quelli che con la rete pensano di lavorarci, insomma, pensano di mettere in moto delle cose che poi si rivolgono ad altri pubblici, insomma, sono questi. Esattamente, infatti è proprio la domanda che noi abbiamo fatto, cioè noi siamo andati a chiedere, per esempio, in termini generali, quale fosse il loro visione del futuro e tra gli esclusi, coloro che dicono noi abbiamo fiducia nel futuro, sono il 50%. Tra gli osservatori sono il 67%, tra i creativi sono il 70%, cioè i creativi comunque si sentono di avere strumenti che gli permettono di essere anche più positivi rispetto a quello che si troveranno ad affrontare nei prossimi anni. Quindi questo è il dato sicuramente dal punto di vista così sociale più importante. Ma ancora un'ultima domanda che abbiamo fatto, noi diciamo sempre, chi ci governa dice spesso i giovani si devono inventare il loro futuro, il lavoro se lo devono creare, no? Quindi devono diventare imprenditori di loro stessi. E noi abbiamo fatto questa domanda, cioè abbiamo chiesto, lei si sente in grado di iniziare a realizzare un proprio progetto imprenditoriale, quindi tu ti senti in grado di proporti anche in termini professionali? Ah. E qui è decisamente, come diciamo noi sociologi, la correlazione è lineare proprio. Gli esclusi dicono sì al 18%, gli osservatori sì al 26%, i consumatori il 35%, i contributori il 38%, ma arriviamo ai creativi il 52%. Quindi raffrontiamo le due classi. Gli esclusi dicono sì, io me la sento nel 18% dei casi, i creativi dicono sì, io me la sento nel 52,8% dei casi, quindi il 53%. Sì. Quindi questa è la domanda che discrimina un atteggiamento completamente diverso. Direi anche da questo insieme di dati, insomma, una certa dose di luoghi comuni quando si parla appunto di internet e comportamento dei giovani viene un po' cambiata, insomma. Ho ridimensionato anche. Di per sé non si, la cosa più importante è che quando si parla dei nativi digitali, come se fosse diciamo l'anagrafica, cioè l'età che fa differenza, non è così. Cioè, i nativi all'interno di coloro che comunque sono nati in un'età di internet, non è che di per sé hanno delle attitudini diverse, cioè significa, per il nativo digitale significa proporsi in maniera attiva e anche con il proprio progetto rispetto alle nuove tecnologie, non si tratta semplicemente di consumare video online o musica o navigare su internet, ma la tecnologia deve far parte, deve diventare parte di un progetto, sono i creativi. Gianni Domenici, grazie. Buona serata e buon lavoro. D'estate ogni tanto noi consigliamo la lettura di qualche libro che è abbastanza, insomma, denso e non va bene, non può essere letto nella normale quotidianità durante l'anno, mentre invece un po' distesi lo si riesce a leggere. Certo, il libro potrebbe essere abbastanza complesso. Questo libro qui, Il sé viene alla mente, si presta a questa tempistica un po' più rilassata, però il libro non è banale, è abbastanza complicato. L'autore è Antonio Damasio, che è stato intervistato da Marco Filoni. Ciao Marco. Salve a tutti. ti do del tu perché sei un giornalista, hai scritto questa intervista per Repubblica, tu sei di base come competenza filosofo, infatti questo è interessante proprio per iniziare questa nostra chiacchierata, in quanto con Damasio, che è un neuroscienziato di origine portoghese, autorevole, importante, insomma è sulla piazza della ricerca ai massimi livelli da tanto tempo, però insomma vi siete ritrovati in fondo piuttosto sintonizzati sulle riflessioni di tipo filosofico piuttosto che quelle strettamente tecniche, e il racconto un po' di questo tuo incontro per l'intervista mi sembrava molto divertente. Beh sì, Damasio è un grandissimo neuroscienziato riconosciuto a livello mondiale. Assolutamente. Lui sì. Insegna a Los Angeles dove dirige l'Istituto sulla creatività e la mente. Ora, come ogni buon neuroscienziato che si rispetti, si fa molte domande, e molte di queste domande sono filosofiche nel momento in cui sono domande che riguardano delle sfere che la scienza in qualche modo tenta di affrontare, ma non sempre riesce a formulare delle risposte. E l'incontro con lui, al di là della piacevolezza umana, perché come tutti i grandi sono di una umiltà e di una gentilezza davvero disarmante, e la prima cosa che mi è venuto da chiedergli a Damasio è appunto, visto che il libro è così complesso, ci sono delle domande, io insomma non avevo capito bene questo libro, l'avevo letto e riletto, c'erano dei passaggi per me molto ostici perché, come dicevi te, io non ho una formazione da neuroscienziato, e quindi diciamo che ho messo subito le mani avanti con lui dicendo mi chiarisca, io non ho ben capito alcune pagine, e lui in maniera molto candida, quasi come un ragazzino, mi guarda e fa: ah beh, ma nemmeno io le ho capite, sai, altrimenti non l'avrei mica scritto questo libro. E questa è la risposta spiazzante che appunto un grande scienziato sa darti. E quindi entrando nel merito del volume, il sottotitolo recita La costruzione del cervello cosciente, ed è in qualche modo il tentativo di rispondere a, più che di rispondere a delle domande, di porsi delle domande. A me sembra molto interessante questo. Cioè Damasio ci dice che la coscienza, ciò che va sotto il nome di coscienza, ha una funzione, e questa funzione viene svolta dalla coscienza nel processo di adattamento all'ambiente. E a partire da qui Damasio quindi si chiede, attraverso queste pagine, qual è questa funzione e qual è il significato della coscienza nella storia evolutiva delle forme biologiche. Insomma, un po' come dire, a che cosa serve? A cosa serve la coscienza è una domanda da un milione di punti, nel senso che vi sono un sacco di risposte tecnico-scientifiche, se così posso esprimermi. Però ciò che è interessante di questo libro è che Damasio non si limita a questo, cioè non si limita a ciò che la scienza ci offre per leggere appunto ciò che noi chiamiamo coscienza, o perlomeno cervello cosciente. Lui non si limita a leggere le mappe neuronali, ma vuole in qualche modo richiamare il livello mentale delle operazioni cerebrali e capire come queste giochino un ruolo nella formazione del sé, cioè della considerazione che noi abbiamo di noi stessi nel momento in cui il nostro cervello, che è cosa differente dalla mente, e si autoraffigura come cosciente di sé. Sì, e infatti anch'io ho visto che quello è al centro del libro, perché lui dice che c'è la coscienza, quella nostra, che è ciò che ci fa percepire che stiamo facendo qualcosa, che l'abbiamo fatto, che la faremo, e poi c'è una coscienza, un sé primitivo, no? Che è quello, come dire, che vive istante per istante, che sarebbe quello tra l'altro degli animali. E qui io infatti mi interrogavo: ma come facciamo a parlare della coscienza di altri se già sappiamo così poco della nostra? È difficile non è rispondere. Mi pare di poter dire che l'acquisizione fondamentale che l'uomo ha nella considerazione del sé sta nel fatto che il cervello costruisce la mente. La mente è dotata di coscienza, ovvero quando il cervello aggiunge alla miscela della mente un processo del sé. Ora, questo processo del sé è ciò che permette alla coscienza di affiorare. nell'essere senziente, quindi nell'uomo. Però l'essere senziente non è soltanto l'uomo, ci dice Damasio, e appunto anche lui è molto cauto nel dare risposte definitive. Tremendamente complicata questa cosa. La ricerca sulla coscienza è considerata la sfida scientifica più difficile che abbiamo davanti, anche perché dobbiamo andare a indagare qualcosa mentre la facciamo. Ma sì, perché poi io una delle prime cose che ho chiesto a Damasio, essendo lui portoghese, legato alla cultura portoghese, lui inizia il libro con una citazione di Pessoa, dove l'anima viene definita una misteriosa orchestra. Rende molto bene l'idea dell'orchestra, c'è un brano da suonare, no? E lui mi ha detto, questo brano non basta, cioè ci vuole il direttore d'orchestra, ci vogliono i musicisti, ci vogliono gli strumenti, ci sono tutta una serie di elementi che devono non soltanto essere presenti, ma devono coordinarsi. E lui dice che la coscienza, la vita umana in generale, ma soprattutto la coscienza, è un po' come un brano che deve essere suonato da tutti questi elementi in armonia fra loro. Bel problema, direi, alquanto complicato. Marco, ti ringrazio e buon lavoro. Grazie, buonasera. Rimandandovi alla prossima settimana qui insieme a noi con Mebius, rapidissimamente vi dico che la soluzione del quiz è che il signore X si chiama Peter. Buona settimana a tutti.